che fulmine improvviso, il capo Dio, il misero cor mio non attendea. Sono un figlio infelice, oddio la vita. Lo pratentasti in van. L'opra ho compita, vidi cadere al suolo, darai del genitor l'immondi panni. Ma de raggi di Febo al primiero abbagliari chiusi e lumi, e ritentato in vano di resistere al dì, fu l'uomo invitto, vinto dal suo dolore, e ormai contento delle tenebre sue sdegna ogni cura. Ricusa il giorno e reso incapace soffrirlo, lo disprezza la morte, e da voler morir pria si riduce che a ritentar di tollerar la luce. Oh, novella funesta! Rimasi anch'io sol di tremar capace. O di Ninive audace, il popolo dirà che noi sedotti da folle speme e temeraria fede abbiam tobit ridotto in cecità più ria. Che trambusto fatal, che fiero tormento mi sento in orri.